Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buona giornata se ci state ascoltando alle 6.45, buon fine serata come sempre se ci ascoltate in replica alle 20.45. Che vi pare Roberto Galullo, subito la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Vi invito a visitare il mio blog, lasciate dei commenti, mi farà piacere. Il blog si chiama Guardie o Ladri ed è sull'home page del Sole 24 Ore, o se no lo trovate attraverso un motore di ricerca. Allora, prometto e mantengo le cose che dico e, come sapete, i casi personali non li affronto mai, ma di tanto in tanto li metto insieme quando riguardano erogatori di servizi, ed è un classico nelle mail che riceviamo, li mettiamo insieme, ne scegliamo alcuni dal mazzo, mi scuso per gli altri, ma tutti davvero non riusciamo ad affrontarli, e cerchiamo di avere delle risposte. Abbiamo questa volta di servizi lamentati nei confronti dell'Enel da parte di due imprese, piccole e medie imprese, vale a dire il motore dell'Italia, la spina dorsale economica sulla quale si regge il nostro paese. E do quindi il benvenuto innanzitutto ad Antonio Cucchiarale, che rappresenta la ditta Prisma Automatic Doors for Elevators, quindi fanno ascensori, ed è una piccola e media impresa di Casale di Mezzani in provincia di Parma. Buongiorno Cucchiarale. Buongiorno. E do il benvenuto all'avvocato Marco Medici, che rappresenta la impresa PLK SRL di Spezzano di Fiorano Modenese. Buongiorno Medici. Buongiorno a lei. E abbiamo il piacere di avere con noi Fosco Bellotto, che è responsabile della Customer Care dell'Enel. Buongiorno Bellotto. Buongiorno a tutti. Allora, visto che io non ho potuto subito dare corso alle richieste di aiuto che ci sono giunte dalla Prisma, il paradosso è stato che la Prisma il problema se l'è risolto da solo. Dico bene o dico male, Cucchiarale? Dice bene, noi l'abbiamo risolto perché abbiamo la fortuna di avere due stabilimenti l'uno di fronte all'altro, c'è solo una strada che ci separa, quindi dopo 2 mesi e mezzo circa di attesa da parte dell'Enel e non avendo avuto alcun riscontro da parte di questa azienda, abbiamo chiesto autorizzazione al comune per poter portare la corrente da uno stabilimento ad un altro. Ecco, quanto avete, come dire, inseguito l'Enel, nei confronti della quale il fax è giunto anche a Bellotto, siete stati tutt'altro che teneri. Ora non ripeto le parole, ma sicuramente pure educati, ma teneri non lo siete stati. Sì, dunque la richiesta di subentro l'abbiamo inoltrata il 17 ottobre del 2008. Il fax a cui fa riferimento è datato 15 dicembre 2008. Esattamente, esattamente. Ecco, allora io passo subito la parola a Bellotto. Allora, un'impresa grande, enorme, con capitali privati siete voi, quotate sul mercato, grandiosi investimenti, un'impresa piccola, non quotata sul mercato, ma comunque che regge questo paese come lo regge l'Enel, è il, come dire, il vostro cliente. Allora, non dico di avere un occhio di riguardo perché tutti i clienti sono uguali, ma come mai si deve giungere al punto, Bellotto, da autorisolversi il problema anziché delegarlo a chi questo per mestiere deve fare? Intanto ci scusiamo con il signor Antonio Cucchiarale, la loro richiesta riguardava la richiesta di un subentro, ahimè, non gestita nel migliore dei modi. Come anticipato, la richiesta è pervenuta a ottobre 2008 ed è stata sollecitata più volte. Forse per un eccesso di zelo è stata inserita nei sistemi una seconda richiesta, la quale ha contribuito a bloccare il processo. Cioè, visto che siamo una grossa azienda e abbiamo anche automatizzato molti dei nostri sistemi, ci siamo trovati nel sistema 2 richieste dello stesso cliente per la stessa fornitura e questo ha bloccato il proseguimento di tale richiesta. Ho capito. Ecco, infine a gennaio è stata definitivamente annullata su richiesta del cliente. Io volevo scusarmi, sono spiacente dei disagi che abbiamo arrecato al cliente, volevo dire che avevamo tutto l'interesse di acquisire un nuovo cliente, ma purtroppo nel caso specifico, nostro malgrado, non siamo riusciti. Ecco, ma questo le fa onore, per carità di Dio, siamo qui per parlare in maniera assolutamente civile, anche per capire. Una curiosità, la Prisma ha sostenuto un costo di circa 20.000 euro per, lo dico volgarmente, tagliare una strada, cioè fare una fettuccia attraverso la quale far passare l'energia elettrica. Ecco, ma questi costi li deve sostenere l'impresa, oppure voi avete un fondo che risarcisce nel momento in cui riconoscete gli errori? Diciamo che noi abbiamo delle assicurazioni quando abbiamo dei danni nei confronti del cliente. Qui però bisogna che valutiamo assieme anche ai nostri legali, certo, assieme alla competenza della mia unità, quali sono di competenza del cliente e quali erano di competenza nostra. Sì, sì, ma ecco, è una curiosità. Quindi perché con il signor Cucchiareale magari io do anche disponibilità, perché io in persona mi metto in prima persona per dire non voglio che succeda un altro caso del genere. Certo. Per risolvere questo caso, ma perché non gli succedano, almeno con la nostra azienda, altri casi simili. Assolutamente, si sente che è una persona che assolutamente ci mette la faccia, in questo caso la voce, e quindi bene fa a rimarcare il suo ruolo. Io passerei a questo punto ad un altro caso, ad un caso che anche questo segnalato, e chiedo scusa, il 7 novembre 2008, ma credetemi radioascoltatori, arrivano talmente tante mail in redazione che veramente non riusciamo a tenere coda a tutte quante le vostre richieste. Allora, questa richiesta di aiuto giunta dalla PLK SRL a novembre, io non sono riuscito a prenderla in esame prima del giorno appunto in cui vi sto parlando. Il problema si è risolto pochissimi giorni fa, però chiedo all'avvocato Marco Medici, questo non è che fa onore all'Enel, o sbaglio, Medici? Ma no, il problema è stato... Intanto lo illusi il suo problema, così almeno cerchiamo anche sì, poi di confrontarci. Certo. Esatto, molto rapidamente il problema si è trattato di una semplice doppia fatturazione, nel senso che la mia cliente era cliente Enel Energia S.p.A. dal 2006. Nel maggio 2007 ha deciso di cambiare operatore rivolgendosi ad un altro, non so se posso fare il nome, ma è comunque sì, sì. Com, è regionale qui di certo. Emilia Romagna, tutti conoscono. Se non che le pratiche di subentro, non ho ancora capito francamente se siano state curate male da parte del subentrante, quindi era, o da parte di Enel. Fatto sta che per un periodo di un anno e mezzo quasi, quindi da maggio 2007 a settembre 2008, la mia cliente si vedeva recapitare periodicamente doppie fatture, quindi fatture di Enel Energia, il precedente teoricamente gestore, e quello di quello nuovo. E io ho chiesto più volte chiarimenti sia ad Enel e ad ERA che mi indicassero esattamente chi fosse il reale fornitore al quale puoi pagare le relative forniture. Purtroppo non ho mai ricevuto risposte, allora nel dubbio io contestavo sia l'uno che l'altro. Ecco, io rimango sempre perplesso, lo dico francamente, di come non ci sia comunicazione fra, ripeto, attori dell'economia di questo paese, ma se anche non fossero attori dell'economia di questo paese, fossero comuni cittadini, semplici cittadini, che quindi hanno diritto di dignità quanto e forse anche più delle imprese, perché hanno anche meno strumenti a disposizione, mi domando perché poi si debba giungere a chiamare una radio, a chiamare un pupazzo vestito da gabibbo o altro per risolvere dei problemi. Io questo qui francamente non riuscirò mai a capirlo, soprattutto oggi in cui la comunicazione è facilitata. Invece più faccio questa trasmissione, più capisco che i nuovi strumenti di comunicazione, come ad esempio le mail, non risolvono un bel tubo. E allora le chiedo, Bellotto, c'è stato un gioco tra ERA ed Enel a scaricarsi le responsabilità? C'è stato un difetto di comunicazione? Ecco, come è andata questa vicenda, ma soprattutto come non devono andare queste vicende, Bellotto? Esattamente, lei ha colto il problema. Ma il problema è la comunicazione. Diciamo che durante le fasi di passaggio ad altro fornitore della società PLK, pur avendo avuto tutta la documentazione come Enel, e quindi qui ci prendiamo la colpa, visto che l'avvocato Marco Medici non sapeva ancora se la colpa era di Enel o di ERA, certo. La colpa in questo caso è stata nostra, e non abbiamo interrotto la fatturazione verso il cliente. E ad oggi abbiamo sanato la situazione del cliente rimborsando tutta la somma, e l'abbiamo fatto prima della trasmissione, o prima che io sapessi che ci fosse questa trasmissione, e quindi ci rendiamo conto che e ci siamo accorti della situazione e stiamo seguendo attentamente questo processo per evitare che si ripetano situazioni analoghe. Tra l'altro, essendo un mercato nuovo, il mercato dell'energia elettrica libero, l'autorità è intervenuta su questo caso emanando una delibera a giugno 2007 che obbliga i venditori entranti a comunicare al venditore uscente l'acquisizione di un nuovo cliente tramite un modulo specifico. Ecco, l'abbiamo già affrontato. Questo dà maggior visibilità a tali cambiamenti e ci porta a ridurre drasticamente o ad annullare questo fenomeno che, ahimè, ha... Certo. E anche possibili contenziosi. Io ringrazio Bellotto per averci messo la faccia e la voce nella responsabilità e anche nella missione di colpe, responsabile della Customer Care di Enel. Complimenti, cerchiamo di non ripetere più però questi casi. Ringrazio le nostre due imprese intervenute attraverso la voce di un responsabile e di un avvocato. Grazie in regia Filippo Aureggi, in studio Laura Faggin. Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.